Lo scorso anno in Italia l'amore ha fatturato 600 milioni di euro. Quest'anno, in piena recessione, a Milano sono stati spesi 6 milioni in gioielli. In Lombardia, rispetto all'anno scorso, sempre per l'amore, si è speso più 3,7%. In Brianza, che prima per crescita d'amore, più 10,3%. Il weekend di San Valentino sarà fatto dalle coppie dell'amore nelle città d'arte o alle terme. E l'ANSA dice che per fare meglio l'amore è meglio che si vada in agriturismo. Alle 18.000 imprese italiane dell'amore, alla festa dell'amore, alla festa degli innamorati o degli innamorabili, nel senso a coloro che l'amore possono permetterselo. Onest! Questa è Banda Armata. Ratzinga! Ratzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici. Ratzinga! Ratzinga! Si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mattinente c'è. Ratzinga, Ratzinga, croci rotanti, Ratzinga, paternoste, Ratzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te. Ratzinga, Ratzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura di sa italiane che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà. Ratzinga, santa, dama diabolica, doppio rosario. Buonasera, questa è una nuova puntata di Banda Armata. Trasmettiamo sulle frequenze web di Fuori Onda Radio dall'aula P2 occupata all'Università della Calabria. E come sapete ormai andiamo in differita giovedì alle 16.30 sulle frequenze etere di Radio Ciroma e giovedì alle 21.30 su Radio Transizione di Fase. Ringraziamo come sempre Radio Ciroma e Radio Transizione di Fase per lo spazio che ci dedicano. Una puntata molto intensa, parleremo chiaramente della manifestazione del 13, dello scontro fra potere giudiziario e potere politico nel nostro paese, parleremo come sempre di ambiente e di territorio e poi non si può parlare di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Dopo l'Egitto, la Tunisia, anche Teheran sembra soffiare un vento di rivolta. Io al microfono c'è Flavio, aprirei con una notizia di questi giorni, ovvero una notizia internazionale ma che parla anche di giustizia e di ambiente, ovvero la Chevron, che sarebbe l'azienda che ha rilevato la Texaco, l'ente petrolifero è stata condannata da un tribunale ecuadoregno al risarcimento di circa 9 miliardi di dollari nei confronti della popolazione ecuadoregna. Perché? Scusate, dalla regia si può evitare, non si capisce niente. Perché? Perché negli ultimi 30 anni gli impianti della Texaco hanno versato nel territorio ecuadoregno 68 milioni di litri di rifiuti tossici. 68 milioni di litri di rifiuti tossici, io non ho idea di quanti siano. Fatto sta che sono previsti per tutti questi, per questi danni ambientali, circa 10.000 morti fino al 2080. Si tratta di una vera e propria strage a carico di una delle grandi multinazionali del petrolio, che spargono distruzione, devastazione e anche morte in giro per il mondo. In questi giorni la Eni sta promuovendo uno spot nelle TV nazionali dove non fa altro che promuovere la sua immagine, ed è stato uno spot che ha fatto molto scalpore, perché è risaputo delle stragi che Eni ha favorito e delle devastazioni che continua a favorire nel triangolo del Niger, per non parlare poi dei rifiuti tossici che sono a casa nostra. Si pensi soltanto a Crotone. Numeri da capogiro, dicevamo. 10.000 morti entro il 2080, è una cosa che fa paura nonostante l'Ecuador sia piuttosto lontano. In pochi sanno che per l'amianto da queste parti sono previste 90.000 morti l'anno, e che fino al 2030 le morti per l'amianto saranno, almeno secondo le previsioni della rivista scientifica Lancet, 500.000 soltanto in Europa. Questo per capire come un sistema di produzione scellerato, che non si basa sui bisogni della gente, tantomeno sulla sua difesa, ma sul profitto privato, può incidere non solo nella qualità di vita, ma anche nelle durate e nella mortalità della vita delle popolazioni. A parte questo inizio un po' triste, mettiamo un po' di musica, così ci riprendiamo un po' e poi torniamo a parlare di rivolte questa volta. Metti Fade to Black, Peppo. Il quarto... Thank you. Ecco, e quindi dopo aver parlato della Chevrolet e tutti 68 milioni di tonnellate di rifiuti tossici, il passaggio, diciamo, ci viene abbastanza chiaro e limpido. La nostra Eni, che ultimamente fa quella bella pubblicità con l'artista della sabbia, che è un po' un paradosso, visto e considerato quello che la nostra Eni ha fatto appunto nel continente africano, e in particolar modo alle pendici del Sahara, appunto sabbia. Prima si ricordavano quello, la devastazione, si ricordava la devastazione che appunto gli stabilimenti petroliferi dell'Eni hanno provocato al delta del Niger. E quindi il passaggio alla questione molto calda delle rivolte nel Maghreb africano è ovviamente un passaggio dovuto. Non sono nuove le notizie del nostro carissimo ministro, che ha finalmente capito che il problema dell'immigrazione non è un problema che si possa risolvere semplicemente con i respingimenti. Peccato che lui non intendeva che la questione è più ampia e dovrebbe essere considerata dal punto di vista generale, appunto guardare quella che è la situazione in quei paesi, ma intendeva semplicemente portare i nostri soldati sulle coste della Tunisia, così non partivano e quindi non c'era bisogno di respingere. Riguardo a tutto questo, lascio il microfono a Flavio, che farà una panoramica abbastanza ampia della situazione. Vabbè, chiaramente noi non siamo qui per fare cronaca, ma più che altro per fare qualche considerazione politica e per far notare qualche particolarità. Già che ci sono stati degli scontri a Teheran ieri e l'altro ieri, cioè, come ho detto prima, il vento della rivolta a Oriente sembra tornare anche nel regime totalitario islamico di Ahmadinejad, è stata secondo me piuttosto significativa la presa di posizione da parte della politica istituzionale, dei vertici statunitensi. Barack Obama e il segretario di Stato Hillary Clinton si sono espressi a favore dei manifestanti, definendo, sì, la faccia di Gustavo abbastanza, definendo appunto i manifestanti di Teheran coraggiosi, e hanno auspicato che si abbiano il coraggio di continuare a protestare liberamente e pacificamente, così come in Egitto, no? Ma giusto? Sicuramente, il fatto che loro si prendono le parti stavolta della componente popolare di questi territori è una cosa molto interessante, perché fa capire quelli che sono anche i giochi di potere che ci stanno dietro, nel senso che... Ma qual è il passaggio che a me ha colpito molto? Che chiaramente il governo di Teheran ha detto che a fare gli scontri ci sono stati due morti, ha detto che in realtà a sparare sulla folla non è stato l'esercito di Teheran, ma sono stati dei manifestanti, dei mujahideen, della gente che si trova lì apposta per violenza e cose del genere. E questo mi ha ricordato un episodio di qualche settimana fa in Afghanistan, quando morì un militare italiano no, non morì un militare, fu uccisa una persona in uno scontro dove fu coinvolto anche il contingente italiano, e uscì fuori che a sparare non era stato l'esercito, ma era stato un terrorista islamico travestito da militare italiano. Questo è una cosa piuttosto significativa. Ma già che siamo in tema di rivolte, in tema di... sempre gli Stati Uniti, il vento della rivolta si sta, come detto, allargando ed è arrivato e approdato persino nel piccolo paese del Bahrain. In questo paese, diciamo, ci sono stati degli scontri, ci sono stati dei feriti, e da questo punto di vista il governo americano non ha preso posizione, e soprattutto Perché il governo americano non ha preso posizione? La cosa si spiega subito, perché in Bahrain perché il governo americano non ha preso posizione? Ed il Bahrain è un paese che la cui popolazione è 70% sciita. ma il governo è sunnita, o il contrario, insomma, non mi ricordo precisamente qual è questa cosa qui. Come fa il 70% di un paese sciita ad avere un governo sunnita? La spiegazione, per tornare agli americani, è che c'è all'interno del Bahrain una delle più grandi armate di flotta statunitense. Il Bahrain è un paese del Golfo dove gli Stati Uniti hanno molti interessi petroliferi. E quindi questo fa un po' il quadro, no? È un po' il filo rosso che secondo me si tesse fra l'Iran, fra il Bahrain, fra l'Egitto, insomma. Quello che si sta ricomponendo in questa fase è ovviamente è un quadro di riassetto internazionale. È un quadro di riassetto internazionale. Infatti noi stiamo guardando un'intera zona, appunto quella africana, che dopo i venti dei primi anni 90 sta, e dopo quello che è successo nel 2000, si sta a distanza di 10 anni, si sta subendo un'ulteriore ricomposizione. Questo è una cosa che è significativa di quelle che sono tutti gli interessi che hanno sostanzialmente in primis le potenze occidentali, ma comunque anche quelle dall'altra parte degli Urali, diciamo, si stanno muovendo in quella direzione, anche se magari più in Sudafrica. E loro stanno appunto continuando a infilare i loro artigli anche in quelle rivolte che magari nascono spontanee, ma magari poco organizzate. Questo secondo me fa emergere anche un'altra grossa questione, che è appunto quella della coscienza della rivolta, nel senso che effettivamente evitare che una rivolta sincera di stampo popolare venga strumentalizzata è una cosa che necessita di una preparazione lunga, e ovviamente non può dipendere solo dalla rabbia delle popolazioni, ma penso ci debba essere qualcos'altro. Per suggellare questo momento, diamo alla regia il compito di una sottolineatura musicale, direi. I would like to see sono. Allora, siamo tornati qua in diretta. Siamo sempre Banda Armata su Fuori Onda Radio. E io sono Carlo. Ho già avuto modo di parlare in qualche altra puntata precedentemente. E l'argomento che vi voglio introdurre questa sera è inerente alla manifestazione del 13 febbraio scorso, la manifestazione che ha visto coinvolta molta migliaia di persone, anzi milioni, per così dire, stando ai dati che sono stati diffusi, in tutta Italia, principalmente donne, ma non solo, anche molti uomini hanno invaso le piazze italiane per dire no a questo modello di successo facile che il modello del berlusconismo da qualche anno a questa parte ha introdotto e che è venuto fuori ultimamente tramite gli scandali del caso Ruby e delle escort dei vari festini a luci rosse di Palazzo Grazioli e della Villa di Arcore che ben conosciamo. Le donne in piazza hanno espresso il proprio dissenso a questo modello di business, se così si può dire, che vede sfruttare la bellezza del corpo per poter giungere a un successo facile, sia così dire, per poter fare poi carriera. C'è Flavio che mi interrompe, quindi mi sto perdendo. Aspetta che... Vabbè, diciamo che al di là, secondo me, di quello che è stato il 13, di cui poi magari parlerai meglio tu, la cosa importante, secondo me, è lo scontro fra i poteri che c'è in Italia, che è uno scontro che riguarda non solo le escort, che secondo me hanno un peso sicuramente etico, morale maggiore, ma è uno scontro fra magistratura e governo che dura praticamente da 10 anni e che riguarda la corruzione soprattutto. La cosa bella è che in questo momento si sta vedendo come il sistema di contrappesi della nostra democrazia sta a qualche gradatura, no? In generale quando dici ma com'è possibile congiungere tutto il potere in mano all'esecutivo? No, ma c'è anche la magistratura, c'è anche il giudiziario, c'è anche il legislativo. Questi tre poteri si bilanciano in maniera perfetta e adesso? Questa è la cosa. Sì, ma ritornando al discorso sul quale mi ero interrotto un attimo per disturbi esterni, scherzi a parte, non è tanto uno scontro tra potere e magistratura, quello se vogliamo è più un discorso di scaricabarile politico. E il motivo che ha spinto la gente in piazza domenica è stato questo volersi ribellare a questo modello di successo facile in cui non conta tanto quanto uno ha studiato, quanto uno è capace di poter mettere in pratica le proprie conoscenze e le proprie capacità, ma quanto sfruttare la propria bellezza per poter arrivare molto facilmente a posti di prestigio, quali incarichi istituzionali o quant'altro. Il dato anche rilevante e importante di questa situazione è che le nostre donne, che hanno tutto questo orgoglio, si rendono conto di essere sottomesse a queste vicissitudini solamente quando c'è qualcuno che a cui viene che qualcuno che glielo fa notare. Cioè la cosa in questa dimensione è particolarmente interessante. È particolarmente interessante anche il fatto che un capo del governo che ha sulle sue spalle, come tutti gli altri, i crimini e tutti i crimini che vengono perpetrati nel nostro paese da ormai 50 anni, 60 anni, siamo nel 2010, abbia le sue maggiori trovi le maggiori asperità non in un confronto che vada alla questione politica del suo operato, non in un confronto che gli sbatta in faccia quello che è appunto la sua concussione con quelli che sono i poteri mafiosi, con quelli che sono i poteri anche economici di cui abbiamo ampiamente parlato. E quindi la cosa bella è che è un popolo che si risveglia nel momento in cui l'etica, la morale viene colpita, mentre quando viene colpita appunto la propria dignità di essere umano, ma non in quanto donna o in quanto uomo, ma in quanto essere umano, nel senso quando viene colpita la sua capacità di vivere, la sua libertà, non dice una parola. A proposito della manifestazione del 13, secondo me sarebbe importante capire cosa ne pensa una donna militante, no? Per esempio Regina era il 13 in piazza insieme a noi a Cosenza. Salve, buonasera a tutti. Dunque, io il 13 sono scesa in piazza perché ritengo che la questione femminile, ahimè, non è una questione che nasce dal caso Ruby, ma è una questione vecchia. Purtroppo l'immagine della donna, quindi l'immagine stile Ruby, ecco, è l'immagine che ci viene posta così, è il modello che ci viene posto dall'alto, quindi è un modello imposto, un modello dove la massa, diciamo, le masse cercano di seguire per avere quel riscatto e quindi per cercare di come si suol dire, per cercare di avere questo riscatto sociale. Mentre da un lato quindi si impongono e ci portano verso di seguire, diciamo, questi modelli qui, non ci dobbiamo dimenticare che dall'altro lato basta pensare alla 106, tante altre diciamo strade, un sacco di donne svendono il proprio corpo per bisogno e per ricatto, quindi donne venute dall'est, donne quindi che non riescono a trovare un lavoro sicuro, quindi in sostanza la questione delle donne è una questione prettamente economica, quindi non possiamo così tenere distaccato l'emancipazione femminile e la mercificazione, diciamo, della donna dalla questione economica. E si può contestualizzare anche per quanto riguarda, ecco, per me vendere il proprio corpo sia sulla strada e quindi in cambio di denaro, ma anche su un posto di lavoro, sottostando quindi a quelli che sono i ricatti che ci vengono posti dal padrone, piuttosto che nella logica di scambio. Basta pensare allo scambio di voto che ormai sembra il mercato, quindi a chi offre di più diamo il voto, quindi la questione penso che purtroppo ai giorni d'oggi è facile vendere non solo il proprio corpo ma soprattutto la propria dignità. Tutto. Punto di vista piuttosto interessante. Stacchiamo un attimo con un po' di musica e poi dopo riprendiamo il discorso. Volevo dare una notizia flash, è stato detto già troppo in merito, quindi passeremo dopo la canzone al prossimo argomento. Cioè, la notizia è di oggi, quindi è abbastanza fresca. Si è finalmente giunti a come dire non mi viene il termine, portare finalmente in tribunale il Premier per questi reati di concussione e prostituzione minorile. Infatti il 6 aprile ci sarà finalmente l'udienza davanti al Tribunale di Milano. Quindi a questo punto tagliamo questo argomento, finalmente vi lascio con un giudice di De André. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. E a proposito di manifestazioni, noi già la settimana scorsa avevamo annunciato che nella prossima settimana si sarebbe tenuto un evento contro la repressione, per ribadire l'antifascismo delle componenti militanti che sono dentro Cosenza. La prospettiva sta diventando più concreta, è arrivato il comunicato tra virgolette ufficiale dell'appello da sottoscrivere da parte dei compagni del rialzo, di cui farò una lettura integrale perché penso sia doverosa. Allora, anche perché descrive il quadro in maniera molto più chiara di quanto io sarei capace di fare, quindi. Allora, lo scorso 16 dicembre la Cosenza antifascista ha presidiato la casa comunale che si preparava ad accogliere Adriano Tilger. Un presidio determinato a non dar spazio ad una persona che, oltre al suo passato di militante di estrema destra, nonché fondatore di Avanguardia Nazionale, continua ad esprimere un pensiero xenofobo e razzista. Nonostante oggi Tilger trova spazio nel partito della destra, rappresenta ancora un'ideologia fascista che predica la superiorità di alcune razze, la deportazione dei migranti, dei rom, dei gay, dei diversi. E in una città multiculturale come Cosenza, personaggi del genere non hanno e non devono avere nessuna agibilità politica. Una città che quotidianamente pratica dal basso l'antifascismo, l'antirazzismo, impedendo da sempre l'apertura di sedi di Forza Nuova Casa Pound, stando al fianco di tanti migranti e lottando assieme per l'affermazione dei diritti di tutti e di ciascuno in un'era in cui anche quei principi e diritti che sembravano affermati sono compromessi da un ventennio di politiche che decriminalizzano migranti, attivisti, precari, ultra e chiunque lotta per difendere spazi di agibilità politica o non si allinea ai dettami della parte dominante della società. Questo e molto altro è quanto volevamo ribadire con il presidio contro Tilger. Avremmo voluto che soggetti del genere nella nostra città non mettessero piede e men che meno nella casa comunale, ma ancora una volta, dico se celere, hanno impedito a noi di entrare, consentendo loro di prendere parole e diffondere razzismo e xenofobia. Come se non bastasse, a distanza di circa 2 mesi, uno degli antifascisti presenti in piazza, quel 16 dicembre, viene denunciato individualmente per aggressione e resiste al pubblico ufficiale. Pensiamo che la Digos voglia colpirne uno e uno solo, perché colpirci tutti significherebbe rimanere impastoiati nell'ennesimo fallimentare processo politico, e ben sapendo che a Cosenza tali macchinazioni non fanno presa. Ad oggi hanno rimediato solo 15 anni di figuracce, andando a tessere teoremi di eversione e sovversione a Cosenza, anche quando si trattava di solidarietà, perseguitando i ribelli di questa città. Teoremi che si sono sgretolati tra la gente e nelle aule dei tribunali. Ed è proprio per rompere i meccanismi di solidarietà che colpiscono Gaetano, ultra, compagno ed operaio ex Vallecrati, con una sfilza di denunce, sempre a firma Cantafora, per aver lottato a difesa del proprio lavoro, che è indagato assieme ad altri operai come presunto responsabile del fallimento di Vallecrati, fallimento da ricercare tra i politici imprenditori che negli ultimi 10 anni si sono mangiati anche la monnezza. Ma i poteri forti si proteggono a vicenda. Con quest'ennesima denuncia Gaetano rischia di essere etichettato come pericoloso socialmente, per cui gli potrebbe essere impedito di frequentare luoghi pubblici, manifestazioni sportive o di piazza. Ma Gaetano non rimarrà solo. Nonostante i tentativi di isolarlo e mostrificarlo, saremo al suo fianco fino alla conclusione di questa ennesima assurda vicenda che tenta di dividere i movimenti in buoni e cattivi, pacifici e violenti. Il 19 febbraio saremo nuovamente in piazza per dire a tutta la città che il 16 dicembre sotto il comune c'eravamo tutti a respingere Tilger e i suoi protettori, e soprattutto a ribadire che se anche si mascherano dietro l'ufficialità di un partito facendosi proteggere dalla celere, difenderemo questa città da qualsiasi fascismo, giorno dopo giorno, generazione dopo generazione. Sotto il comune c'eravamo tutti, l'antifascismo non si processa. Sabato 19 dicembre 2011, ore 18, c'è un presidio in piazza 11 settembre, appunto, per sostenere l'antifascismo. Quello che dicevamo in tempi passati, nella settimana scorsa per esempio, lo ripetiamo anche oggi, per quanto ci riguarda ovviamente l'antifascismo, quello vero, si esplica nell'agire quotidiano delle singole soggettività di militanti che lavorano con migranti, che lavorano con gli sfrattati, che lavorano con i Rom, che lavorano all'università, insomma rendendo concrete quello che è un altro modo di intendere l'altro in generale, e in particolare un altro modo di intendere la diversità. Ovviamente questo qua deve essere coniugato anche con momenti che diventino anche per certi versi simbolici, come appunto quello che è stato il 16 dicembre a Cosenza. In quella piazza sì, c'eravamo tutti a rispondere ad una sostanziale chiamata che c'era stata fatta, perché noi siamo coscienti che in queste occasioni, oltre ad effettuare propaganda per i loro partiti e per le loro associazioni, diciamo, quello che si fa è anche tastare il territorio. Cosenza ha risposto in maniera forte quel giorno e risponderà allo stesso modo in tutte le occasioni che avrà davanti. Ovviamente io parlo di Cosenza non a caso, parlo di Cosenza come città, perché più che una giornata di particolari strutture militanti eccetera, quella era una giornata in cui si sono trovati in piazza anche studenti semplici. Era una giornata in cui è stata proprio la città a rispondere alle idee appunto in pratica fasciste, ovvero sia xenofobe, ovvero sia razziste, ovvero sia verticistiche e violente, che esprime ancora oggi l'individuo Adriano Tilger, ma in generale anche tutta la sua pispolita. Eh sì, la cosa interessante di questo genere di convegni, di riunioni, di ritrovi istituzionali è che con una bella faccia restaurata da qualche nuovo partitino creato apposta si vuole incanalare quella che è la... si vuole prendere, assorbire quello che è il disagio e la rabbia sociale pienamente legittima in virtù di tutte le devastazioni sociali che stanno provocando questi governi, e allora si vuole prendere questa rabbia e sacrificarla per il supporto, per fare la stampella di quelli che sono i governi dedicati alla Confindustria, cioè all'attacco ai diritti dei lavoratori, degli studenti, dei cittadini. E quindi in sostanza noi eravamo lì in piazza anche per manifestare, che per riappropriarci di quelli che sono i nostri percorsi ed espressione delle nostre istanze, quindi per richiedere, per lottare per condizioni di vita migliori, che non siano, che non sia lo svendere i nostri diritti a organizzazioni che si portano a fare la stampella di questi governi, come quello come fa la destra adesso con il rimpasto berlusconiano, insomma. Per questo comunque ci troviamo ad esprimere anche di nuovo queste nostre istanze, questo modo di vedere la lotta il 16 febbraio alle ore 18 in piazza, il 19 febbraio sabato in piazza 11 settembre alle ore 6. Adesso Peppe Lounge con una grande canzoncina. Ciò che di più prezioso c'eri al tuo interno. Vorrei capire qual è la sottile differenza che ci slega e che arma il mio cuore ad ogni battaglia, lungo o breve che sia, e che inadegua il mio corpo al loro prodotto e spinge me stesso a trovare in essi e le fessure dentro le quali inserire le mie paure. Vorrei sapere chi è che ruba il mio tempo occultando i miei giorni in una nebbia sottile che scioglie il desiderio dentro uno schermo. Cacciava lo sguardo. Vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. Vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. We'll be right back. sapere com'è stato, perché incomincia a essermi insostenibile la comparazione di ciò che ero con ciò che sono diventato. E vabbè che ha avuto avuto, vabbè pure che era taratarato, scusami ciò passato, si menava lo vai sa. Ma ciò che resta è che ci sta, ancora più di qualcuno che va tra un amico che ho risposto, una trovata, pure una cosa improvvisata, pure una domanda retorica, che poi non ce ne voglio, mi mette l'ansia in culo, non mi sento mai all'altezza e mi ha mangiato pure culo. Ma io tengo una certezza, da uno come me ha da parlare, sa da spugare, che compà, cauto ne parlo, me ne muoio. E siccome non mi sento ancora pronto a grande passo, ci tocco che parlare, metto a preparo matarazzo. Perché a parlare è lungo e non capisco manchi a tuo cazzo voglia parlare. Sarà che sto invecchiando, sarà che non tengo più l'età, o sarà che sono sempre più creatura, che un mondo che si invecchia a tradimento, cadunto l'aspettavo, ti coglie impreparato, e come dice Sergio ti senti inadeguato, però ce l'hai a cantare, come dice Navellino tutto quanto. E mo per nesce a strofa e ricomincia il canto. Vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. Vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. Vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. Come fanno ad entrarti dentro e a rubarti ciò che di più prezioso c'eri al tuo interno? Vorrei capire qual è la sottile differenza che ci slega e che arma il mio cuore ad ogni battaglia, lunga o breve che sia, che inadegua il mio corpo al loro prodotto e spinge me stessa a trovare in essi le fessure dentro le quali inserire le mie paure. Vorrei sapere chi è che ruba il mio tempo portando i miei giorni in una nebbia sottile che scioglie il desiderio dentro uno schema. In questo preciso momento, che io ti sto parlando a te, tu stai sentendo, stiamo comunicando, costruendo, cagnando, tutte cose, tutto quello che ho tu, tieni ragione, non c'è competizione, non c'è gioco, andavano i baffone, baffette, mortadella, faccia cazzo, ma io così sto a scena pazza, mi stai spingendo al massimo ora, io voglio solo dire che è pericolosissimo spingere al massimo a nu pazza, a chi già è morto e rinato già nu pare voto, a chi volesse tenere il pallo c'ha l'anni a fede in uscita, e allora se ne accorgesse tutto quanto, sapesse tutto mondo, ascesse scritto in tuo giornale, tutta a mente pensieri contrastanti, tanti che non riesco più a spiegare. Volesse, potesse, si fosse, tranquillo sto fuori, fuori come solo da lucido puoi arrivare a stare. E parlo per parlare, e tu ringrazia Dio che volere per parecchia gente noi non è mai stato e mai sarà. Potere, vorrei capire, vorrei sentire almeno parte di quello che sono. Vorrei capire, almeno parte di quello che sono. Almeno parte di quello che sono. Rieccoci, questa è ancora Banda Armata dall'ala più occupata. Ricordiamo che stiamo trasmettendo su Fuori Onda Radio sul nostro sito www.piduoccupata.noblogs.org e andiamo in differita alle 16.30 sulle frequenze etere di Radio Ciroma 105.7 FM e sempre sul web su Radio Transizione di Fase alle 21.30 tutti i giovedì. Cominciamo a parlare un po', torniamo in realtà a parlare un po' di territorio. In questi giorni si è parlato di infrastrutture ed in particolare grazie alla sortita, diciamo, la carnevalà, la sorpresina del super ministro Tremonti, detto anche caterpillar dello stato sociale. Detto anche, guarda, in Calabria il problema dell'autostrada. Esatto. Si è parlato, insomma, della venuta del super ministro insieme a quei due, come si chiamano quei due? E dice, guarda, il sindacato forse è per i lavoratori. Quei due, non so che, Angeletti e Bonanni, insomma, hanno fatto questa sortita per testare le infrastrutture del meridione. Sono arrivati in treno fino a Reggio Calabria e poi sono saliti col pullman, e il ministro Tremonti è stato colpito dalla condizione infrastrutturale della nostra regione del meridione, dicendo che i moscerini vanno più veloci dei treni da queste parti. È stata una cosa piuttosto simpatica. Ovviamente lui non ha un cavolo chiaro il paradosso di anche così da Achille, da che arriva prima la fretta. Cioè, è tutta una cosa, dipende dalle categorie mentali che uno utilizza. Nel senso, i nostri moscerini sono molto più veloci dei moscerini che sono al nord. Questa è la sostanza. Comunque, chiaramente noi come cittadini calabresi siamo assolutamente felici che questo nuovo ministro del nuovo governo, insomma, in carica solo da qualche mese, si sia accorto che noi abbiamo un problema, e si è subito capito il piglio del nuovo governo e del nuovo ministro di intervenire. E Cavour diceva c'è bisogno di punture di ferro per il meridione, no? Qualcuno diceva invece, come per esempio Samuele dice sempre, no, noi l'autostrada del mare, e il paragone Samuele Cavour è calzante. Dopodiché, voglio dire, insomma, il neo ministro si è accorto appena è salito in carica che è invece governano da 15 anni. Cioè, lui si è accorto dell'infrastruttura adesso che governano praticamente da 15 anni. Al di là di questo, ovviamente non è passata inosservata questa gaffe del ministro, almeno quella, perché poi per esempio gente come la Ratta, lo Iero, subito si è incancrenita, perché giustamente dice, come? Noi siamo anni che diciamo che le infrastrutture fanno schifo, anche loro, parlamentari, presidenti, governatori. Ma la cosa più simpatica rispetto a questa vicenda, secondo me, sono stati i consiglieri regionali del PDL, che hanno accolto Tremonti dicendo finalmente il governo centrale si è accorto che in Calabria c'è un governo giovane che ha voglia di fare e quindi comincerà a inviare, in particolare è stato Fausto Orsomarzo, che forse pensa che è la prima volta che ci sia un governo Berlusconi e un governo di centrodestra, e invece il governo, quando c'era Chiara Vallotti c'era sempre Berlusconi, non se ne era accorto. Forse quello non era un governo abbastanza giovane, secondo te cosa ne pensi? Effettivamente quello di adesso è più giovane, possiamo anche concedergli qualche vizio di gioventù, certo. Solo di Carfagna è molto più giovane. Poi magari con lui Chiara Lotti è forse un governo tecnico, non lo so, vita tu. Vabbè, come sempre Samuele strumentalizza il corpo delle donne. Io non capisco, ma la manifestazione del 13 non ti ha insegnato niente, secondo me, Samuele. Comunque, quindi torniamo a parlare di territorio. Ovviamente nessuno del governo, insomma, ha parlato di 106. Io all'inizio pensavo fosse solo una trovata pubblicitaria, invece poi quando si muovono come Tremonti, in realtà ci sarà sicuramente qualcosa sotto, lo dico a chiare lettere. La cosa mi ha fatto venire i brividi, dal momento che le infrastrutture sono uno dei canali privilegiati di comunicazione fra Stato e 'Ndrangheta. Conseguentemente questa sarà una sortita che secondo me in futuro ci ricorderemo. Ci sono sempre in mezzo i soldi del ponte, chissà che non sia un messaggio questo sulle infrastrutture per l'Andrangheta. In ogni caso, torniamo a parlare di territorio, parleremo di questo ed altro, parleremo di Statale 106 per esempio, parleremo di rifiuti e parleremo di nucleare nella plenaria della rete di difesa del territorio, che si terrà il 6 e non il 20 a Lamezia, il 6 marzo. Ma il 23 ci sarà un importante sit-in a Reggio Calabria davanti al Tribunale per l'inizio del processo di Franco Nistico, di cui parleremo dopo il pezzo che dalla cabina di regia mi suggeriscono essere le orme, uomo di pezza, vai! Comunque, il titolo è Alienazione. L'uomo di pezza è l'album. Mio caro ignorantone. Questo nell'album Uomo di Pezza, nel Greatest Hits, il pezzo si chiama Uomo di Pezza e il Greatest Hits si chiama Alienazione, capito? Bell'ignorantone. Anzi, adesso che ricordo bene, il gruppo è Uomo di Pezza, l'album è Le Orme, e indovina come si chiama la canzone? Alienazione. Con la G, Alienazione. Alienazione, con la G. Al signor Gustavo che si lamentava della lunghezza ti faccio notare che il mio intervento è durato dai 3 ai 5 minuti massimo, a differenza dei tuoi che sono durati... non parliamo niente. Parlavamo di territorio e del sit-in del 23. E come voi ben sapete, insomma, nell'ultima manifestazione No Ponte che si è tenuta a Cannitello, l'ultima manifestazione del 2009 in realtà, ha perso la vita dopo aver urlato il suo intervento dal palco Franco Nistico. In quell'occasione, per una manifestazione assolutamente pacifica, le strade di Cannitello erano assolutamente blindate da forze dell'ordine, da camionette, da insomma forze dell'ordine, peraltro intenuta antisommossa quando non c'era assolutamente nessuna ragione, ma non c'era il personale medico, non c'erano delle autoambulanze attrezzate per le emergenze, tant'è che un malore che ha colpito Franco Nistico lo ha stroncato. C'è stata una denuncia da parte del figlio Guerino, che tra l'altro è il nostro compagno del movimento studentesco, e il 23 si aprirà, ci sarà l'udienza preliminare, si aprirà il Tribunale di Reggio Calabria, e riteniamo opportuno, dopo aver intitolato la rete di difesa del territorio a Franco Nistico, riteniamo opportuno fare un sit-in, quindi si terrà davanti appunto al Tribunale di Reggio Calabria, ricordiamo il 23 mattina, tutti quanti coloro che in questi anni hanno inteso difendere il territorio e continuano a farlo sono invitati, sono tenuti ad essere presenti. E ancora prima di questo sit-in ci sono degli appuntamenti nazionali piuttosto importanti in tema di difesa del territorio. Il 18 a Savona si terrà un'iniziativa del Comitato Uniti per la Salute di Savona, dove si parlerà di carbone, un argomento che è tornato purtroppo alla ribalta in questi giorni anche in Calabria, dal momento che i fidi sindacalisti di Enel, ovvero quelli del Comitato Pro Carbone, hanno sottolineato il fatto che l'Enel ripresenterà il progetto al Ministero. Chiaramente si tratta di una cosa assolutamente inutile, giacché la regione che ha diritto di veto si è già dichiarata contro. Gli speculatori energetici stanno continuando a pressare da questo punto di vista sul territorio. Per esempio ci stanno dei manifesti di Saline Energia Ionica, ovvero dell'azienda svizzera che fa capo ad alcune holding multinazionali. Ci sono dei manifesti che parlano in maniera piuttosto ridicola delle emissioni di anidride carbonica di una centrale a carbone. Mentre, come detto, Enel torna alla ribalta su Rossano e su altri tipi di territori. Ci sarà questo importante appuntamento, che sarà anche l'occasione per fare il punto come coordinamento nazionale contro il carbone. Sarà presente una delegazione di Rossano, una delegazione della rete di difesa del territorio, insomma una delegazione calabrese, che praticamente sono io. E comunque sarà molto interessante, perché hanno già dato l'adesione i comitati di Gualdo Cattaneo, di Brindisi, di Civitavecchia, di Porto Tolle. Insomma, saremo tutti quanti lì, sia chi una centrale non ce l'ha e non la vuole, chi una centrale ce l'ha e vorrebbe spegnerla, per esempio come a Brindisi o come a Civitavecchia. Detto questo, ci sono anche tanti altri appuntamenti, c'è un appuntamento molto importante in Campania la settimana successiva, ovvero il 25 e il 26, di cui parleremo dopo. Ora ci sono i Pink Floyd, no? E dalla cabina di regia mi dicono che ci sono i Clash. I Clash. No, come i? Hang back over every track you beat. Let's just defeat a time. A proposito di cubo di Rubik, così come mi faceva notare Gustavo che è alle prese con lo smembramento fisico del cubo di Rubik, c'è stato un episodio piuttosto carino in questi giorni, sempre che era l'episodio chiave che volevo raccontare prima, se questa sala registrazione non fosse in realtà... Una precisazione, non sto smembrando il cubo di Rubik, sto seguendo un preciso algoritmo di risoluzione. Sì. La cosa simpatica che volevo raccontare agli ascoltatori di Fuori Onda Radio, di Cirome, di Transizione di Fase, è quella di un comunicato del comitato Pro Carbone, a cui io sinceramente non faccio spesso caso, insomma sono sei mesi che prendono legnate, ma ci faccio caso ogni volta che sono simpatici. E anche questa volta, devo dire che questa volta sono stati piuttosto simpatici, perché hanno sottolineato come la possibilità di chiudere la centrale a carbone di Bastardo, che sarebbe la centrale a carbone di Gualdo Cattaneo, ha sollevato una vera e propria rivolta popolare. La cosa è stata piuttosto simpatica nel momento in cui ci hanno chiamato più e più persone da Gualdo Cattaneo a dirci: ma questi qua di quale rivolta popolare stanno? Sono anni che chiediamo la chiusura, che tutto il paese chiede la chiusura, dal momento che ha danneggiato l'agricoltura, ha danneggiato la lavinicoltura, che lì è molto diffusa, l'olio, ha danneggiato praticamente l'economia dell'intero paese, per cui questi qua. Questo dà l'esempio di come questi faccendieri di Enel, in particolare poi si tratta alla fine si tratta di sindacalisti della UIL, della CISL, ma dobbiamo dire che sul territorio anche quelli della CGIL non fanno eccezioni. Questo dimostra la veridicità delle posizioni di questi soggetti, ed è stato piuttosto simpatico, perché gli sta arrivando un'altra legnata, perché arriva dal comunicato di quelli di Gualdo Cattaneo. A proposito di legnate, dicevamo di un importante convegno nazionale che si terrà a Napoli sull'ambiente, sul territorio, sui rifiuti, sulle grandi opere. Il titolo è proprio, se non vado errato, Grandi Opere, Grandi Affari, no? Grandi eventi, grandi opere, grandi affari, che neanche a farla apposta mi fa ricordare un po' la protezione civile rispetto a questa cosa, rispetto ai grandi eventi, no? E in ogni caso, scusa se ti guardo, sto guardando uno della protezione civile. E si terrà il 26 e il 27 a Napoli, presso il centro sociale Banchi Nuovi, è organizzata dalla Rete Campana di difesa del territorio. Ovviamente la Rete Calabrese, Franco Nistico ha aderito, tant'è vero che nel manifesto appello di questa iniziativa a cui parteciperemo, ed è un altro appuntamento importante, in quanto sul territorio, si pensi a quanto successo a Napoli, si stanno sviluppando delle vere e proprie battaglie, delle sacche di resistenza, che non sono sacche di resistenza figlie di una sindrome di NIMBY, cioè figlie di una sindrome di protezione del proprio orticello. Sono delle sacche di resistenza nei confronti di un sistema che non fa altro che divorare il territorio, perché vede nel territorio un altro campo, un campo di avanzamento del proprio profitto e del proprio lucro, e quindi le popolazioni che vivono nel territorio si trovano a pagare quello che è il sistema di produzione, il sistema economico, il sistema del libero mercato, due volte. La prima volta con lo sfruttamento di, per esempio, di queste centrali, di queste fabbriche, lo sfruttamento del lavoro, la seconda volta attraverso il danno nei confronti della salute, attraverso il danno nei confronti del benessere, attraverso la mercificazione dei beni comuni, attraverso la mercificazione di qualsiasi cosa come l'aria, la terra e altri beni comuni. Per cui ricordiamo, gli appuntamenti sono il 18 a Savona per il coordinamento nazionale Nord Carbone, il 26 e il 27 a Napoli, e poi il 6 marzo si terrà a Lamezia presso la sede dell'Unione Sindacale di Base, dell'USB, il sindacato che ti connette, è vero Gustavo, ti connette l'USB. Ho quasi finito il cubo di Rubik. Vorrei farti notare che è molto più difficile con questo algoritmo di risoluzione che non con quello tradizionale. Sì, il 6 marzo a Lamezia, in perfetta continuità con l'intermezzo di Gustavo, il 6 marzo a Lamezia si terrà la plenaria della rete di difesa del territorio. Abbiamo tantissime cose da dire rispetto a queste cose, ma prima sempre Peppe Lounge ci dà un però io non posso parlare più, tu stai dicendo Peppe, se quando mancano tutti devi parlare tu, e tutti i nostri ascoltatori stanno aspettando, soprattutto quelli di Radio Ciroma, stanno aspettando che interviene questo famoso Peppe Lounge, cioè la mannaia della radio, non stanno aspettando altro, quindi vai, adesso ci sono i MAB. Oh, Peppe, almeno dici il tuo classico Wagyu 20 secondi. Niente? Non si smuove? Va bene. Purtroppo Peppe Lounge è ancora indisponibile alla lingua ingessata. Siamo in chiusura di questa ennesima, magnifica, organizzatissima, irripetibile puntata di Banda Armata. Stiamo trasmettendo all'aula più occupata all'Università della Calabria e andiamo in onda su Fuori Onda Radio, ci state sentendo in tantissimi, ma andremo in onda anche domani alle 16.30 su Radio C Roma e alle 21.30. Peppe, perché ridi sul tantissimo? Guarda che ho controllato il server e purtroppo il server mi sa che va in tilt molto spesso. Al di là di questo, i soliti problemi tecnici, andiamo anche su Transizione di Fast alle 21.30 giovedì. In chiusura, una buona notizia: il referendum, chiaramente parlavamo di RDT prima, il 6 marzo si terrà a Lamezia la plenaria dell'RDT, dove si parlerà di rifiuti, ovviamente, dal momento che a Pianopoli continuano ad arrivare i rifiuti di mezza Calabria. Ieri sulla strada dei Due Mari c'era una fila di una cinquantina di camion, nonostante la discarica sia chiusa, non abbiamo ancora ben capito il perché. In ogni caso parleremo di nucleare, parleremo di centrali, di centrali a biomasse, parleremo anche di acqua, ovviamente, dal momento che sta per partire la campagna referendaria contro la privatizzazione dell'acqua. E nel frattempo, rispetto a questo, c'è una bella notizia: il referendum promosso da un piccolo comitato organizzatore per la ripubblicizzazione, o meglio contro la privatizzazione parziale dell'acqua di Berlino, ha avuto un successo strepitoso e quindi i cittadini di Berlino hanno deciso di non privatizzare anche parzialmente la propria acqua in difesa dei beni comuni. Pensate che gli organizzatori non si aspettavano assolutamente il successo che ha avuto questo referendum, e pensate che i finanziamenti che ha avuto il comitato organizzatore, nel frattempo Gustavo ha risolto. Un commento sulla risoluzione del cubo di Rubik. No, io penso che questo algoritmo si può utilizzare solo con i cubi cinesi, perché hanno i colori adesivi che tu li puoi staccare e attaccare a riposto di loro. Mentre Rubik era un'intelligenza, secondo me Rubik verniciava, perché Rubik si faceva fregare. Rubik era vedremo. Onest! Praticamente, quindi, insomma, una nuova pubblicazione sarà in attesa delle riviste scientifiche, ovvero di Gustavo Tigano, la risoluzione del cubo cinese di Rubik. Tornando a parlare di cose serie, dicevamo il successo strepitoso del referendum di Berlino rispetto alla privatizzazione dell'acqua. La cosa che fa decisamente schiantare i soldi che sono stati impiegati dal comitato promotore di questo referendum, un comitato promotore che si scontrava con i soliti comitati d'affari che vedevano nell'acqua di Berlino un possibile terreno di profitto. Beh, attraverso delle donazioni spontanee, il comitato promotore ha raccolto esclusivamente 12.000 euro. È una cifra sostanzialmente praticamente nulla per organizzare un referendum in una città enorme come Berlino. E pensate che il quartier generale del comitato promotore del referendum era un tendone, che sicuramente avranno comprato con qualche migliaia di euro. Il resto sono andati tutti quanti a manifesti, a volantini, a rimborsi spese, perché andava a parlare in giro. Nonostante questo, la città di Berlino ha dato un secco no alla privatizzazione dell'acqua, e dopo Parigi, che ha preso a calci nel sedere la Veolia, la stessa Veolia che è proprietaria dell'inceneritore di Gioia Tauro, che è parte privata dell'acqua della Sorical, ovvero dell'ente ibrido di gestione dell'acqua calabrese, la stessa Veolia i cui camion carichi di rifiuti circolano in questi giorni nel nostro territorio e in quelli di tutta Italia. Dopo Berlino, dopo Parigi, sarebbe anche ora che l'Italia prendesse a calci nel sedere questi comitati d'affari e che restituisse alla gente quelli che sono i beni comuni. Per cui l'appuntamento per parlare di questo è comunque il 6 marzo alle 10.30 presso la sede dell'Unione Sindacale di Base a Lamezia.